ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, eccomi qui pronta come ogni mattina ad iniziare la giornata con voi e speriamo di iniziarla con il passo, con il piede giusto. Di passi, di piede, ma non solo, parliamo oggi con il nostro primo ospite del mattino, il professor Francesco Benazzo, ortopedico alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, ordinario all'Università di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, molti dei nostri ascoltatori sono runner e quindi inseriscono magari di primo mattino un allenamento. Noi oggi vogliamo proprio occuparci di loro. La corsa è fondamentale perché è un'attività che poi è comune a tutti gli sport. C'è chi si dedica prevalentemente a quella, cioè fa della corsa, del running, la propria unica e principale attività motoria. La corsa va fatta però oculatamente, chiaramente, perché non è, anche se non è uno sport di contatto, può provocare dei danni all'apparato muscolo-scheletrico seri, importanti e debilitanti per chi la pratica. E spesso si vedono persone che corrono e non hanno assolutamente preparato niente per quanto riguarda l'attrezzatura, che anche se minima le calzature sono fondamentali. Perché? Perché uno può avere un piede che appoggia troppo verso l'interno, si dice che è il piede prona, quindi ha bisogno di calzature che lo sostengano e facciano pronare meno il piede. Una pronazione eccessiva del piede, ripetuta non nel cammino ma in centinaia di passi di corsa, può provocare dei danni ossei al piede, muscolari al polpaccio e soprattutto tendinei, sia del tendine d'Achille che dei tendini che scorrono appena davanti del tendine d'Achille, cioè il tendine tibiale posteriore, il tendine flessore delle dita. Quindi una valutazione dell'appoggio del piede statico e magari anche dinamico del piede prima di acquistare la scarpa diventa fondamentale. Chi comincia a correre ed è stato sedentario fino a quel momento può avere dei dolori alle ginocchia da sovraccarico semplicemente perché fa troppo rispetto a quello che non i muscoli che magari lo sorreggono perché è una persona giovane, ma le sue articolazioni, ginocchia anche, tibiotarsica, ginocchia in particolare, non sono abituate a fare. Quindi il consiglio è di non cominciare subito con la corsa, ma di cominciare con la camminata veloce, che è chiamata anche Nordic Walking. Poi c'è la specializzazione del Nordic Walking con i bastoni che aiutano anche, con cui ci si aiuta con le braccia e che ha una spesa energetica abbastanza importante e questo diventa importante per persone di mezza età o comunque di età più avanzata che vogliono fare attività di movimento di questo tipo. L'allenamento non è solo del respiratorio cardiovascolare, l'allenamento è anche dell'apparato muscolo-scheletrico. L'adattarsi progressivamente a un aumento dei carichi di lavoro, quindi intensità, frequenza della corsa, velocità della corsa e o durata del percorso diventa fondamentale. Senta professore, allora a chi ha appena cominciato o sta per cominciare, quindi la raccomandazione calzature adeguate e di non cominciare subito a correre, di prenderselo un pochino con calma, usare la testa, quindi la camminata veloce alternata come suggeriscono i programmi. Ma il runner di primo pelo, come potremmo chiamarlo, a quali segnali e sintomi deve fare attenzione per capire se sta procedendo con il piede giusto e col passo giusto? Vorrei fare un passo indietro. Sì, a proposito di passi. Ecco, scelta del terreno su cui si fanno questi passi di corsa, perché tutti quanti poi si tende, siccome si ha poco tempo e quindi si riduce anche la quantità di tempo disponibile per le nostre attività lavorative e si va a correre dove si può, dove si è vicini a casa e così via. Quindi si può correre sull'asfalto, per esempio, ma correndo sull'asfalto dobbiamo ricordarci che le strade, se ben fatte, sono a dorso d'asino. Quindi correndo sempre dallo stesso lato della strada, un piede va in pronazione e l'altro va in supinazione. E quindi bisogna correre alternativamente da un lato all'altro della strada oppure cambiare direzione, andare verso una direzione e poi tornare sulla stessa se si vuole stare dallo stesso lato della strada. I terreni irregolari, per chi non ha allenato, quando parlavo prima di allenamento che non è solo cardio-respiratorio ma anche dell'apparato muscolo-scheletrico, ecco, il terreno deve essere regolare, perché se si va subito a correre su dei fondi regolari, distorsioni di caviglia sono all'ordine del giorno. Se uno non adatta bene, non parte appunto dall'attrezzatura, dal tipo di velocità, di quantità di corsa, terreno, i danni che si possono avere sono prevalentemente innanzitutto muscolo-scheletrici, quindi danni alla cartilagine delle articolazioni, danni tendine e soprattutto delle guanitendine. Non esprimendo velocità massimali in questo tipo di corsa ma prolungato, i danni muscolari non sono frequenti. È frequente in chi esagera nell'attività motoria, sportiva, di corsa non allenata, è frequente i dolori muscolari tardivi. Quindi uno va a correre e dopo 48 ore dall'aver fatto una corsa magari eccessiva, si sveglia al mattino e ha dolori muscolari dappertutto, o soprattutto agli arti inferiori. Questa è una patologia ben nota, si chiama DOMS, traduzione dall'inglese è dolore muscolare di inizio tardivo, di late onset muscle soreness, e corrispondono a un'eccessiva permeabilizzazione, cioè le membrane cellulari dei muscoli diventano permeabili e gli enzimi escono dal muscolo, e quindi si ha un accumulo di acido lattico e dolori muscolari che possono spaventare, ma sono il segnale di un'eccessiva quantità di allenamento fatto, eseguito in maniera impropria. E questi dolori compaiono circa 48 ore dopo l'allenamento. Esattamente. Che cosa si fa? In questo caso bisogna prendere antinfiammatori che riducono il dolore e l'entità della microinfiammazione muscolare diffusa, sì. Prendersi qualche giorno di riposo finché non scompaiono, e non disamorarsi, dire non vado più a correre perché il mio fisico non è adatto, ma porsi la domanda cosa ho sbagliato e che cosa devo fare. E quindi questo è frequente soprattutto in chi ha tempo di correre solo sabato e la domenica, e quindi va a correre un'ora al sabato, un'ora alla domenica, un'ora e mezza al sabato, un'ora e mezza alla domenica, e il martedì fa fatica a camminare. Quindi la diluizione nel tempo della quantità di carico di lavoro che si fa, e quindi andare a correre magari due volte alla settimana, tre volte alla settimana, per un periodo di tempo più breve, evita l'insorgenza di questi danni muscolari, che sono pericolosi non immediatamente ma a distanza, perché se uno si provoca questi dolori muscolari da eccessivo carico di lavoro, quindi DOMS come ho chiamato prima, sì, tante volte nel corso della propria vita di attività sportiva, va a finire che si creano in conseguenza di questi stati infiammatori persistenti e ricorrenti, si creano delle fibrosi muscolari che danno fastidio, nel senso di diminuzione della capacità di lavoro del muscolo. Professore, la corsa piace, seduce uomini e donne? Ci sono delle attenzioni, delle precauzioni che bisogna seguire a seconda del genere? La differenza di genere si manifesta soprattutto sotto due aspetti: la differenza dello scheletro, quindi le donne in genere hanno il bacino più largo, hanno un ginocchio tendenzialmente valgo per la maggior parte dei casi, mentre l'uomo all'opposto ha un ginocchio tendenzialmente varo. Quindi la corsa prolungata, il sovraccarico funzionale nell'uomo si può manifestare dalla parte mediale del ginocchio, per esempio, sì, nelle donne invece sulla parte esterna del ginocchio. E se le ginocchia sono particolarmente valide, a livello dei piedi, perché c'è un'eccessiva pronazione del piede. Quindi sì, c'è una differenza di genere. C'è una differenza di genere anche per quanto riguarda l'espressione della forza muscolare. Chiaramente ci sono donne che esprimono comunque una forza muscolare elevata. Se si tratta di non competitività, quindi di corsa prolungata e così via, queste differenze sono meno evidenti, perché spesso si va a correre con la propria compagna, con la fidanzata e con la moglie, e quindi ci si accompagna nella corsa senza avere diversità di prestazioni. Nelle donne invece c'è un elemento molto importante da tener conto, che è il problema della menopausa. La menopausa corrisponde a una diminuzione della resistenza ossea, perché calano completamente, vengono a mancare gli ormoni, sì, estrogeno, progesterone, che hanno un'azione protettiva nei confronti dell'osso, e quindi l'incidenza delle cosiddette fratture da stress, che non sono fratture traumatiche ma fratture da microtraumi ripetuti nell'osso, è più elevata, questa incidenza, nelle donne rispetto agli uomini. e le ossa più frequentemente colpite sono i metatarsi dei piedi, le ossa dell'avampiede, il collo del femore e il sacro. Dolori che compaiono al termine della corsa, con al piede per esempio dove le ossa sono appena sottocute, arrossamento locale o gonfiore, devono far pensare a questo. Una radiografia è sufficiente per fare la diagnosi, non è sufficiente se si fa troppo presto e quindi se ricompare il dolore per esempio all'inguine per un interessamento del collo del femore, la risonanza diventa fondamentale. Professor Benazzo, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, buona giornata alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, anche di corsa. E buona corsa a tutti. E buona corsa a tutti, professore. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Professor Benazzo, grazie, buona giornata a lei. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.